30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama è intervenuto di fronte al Congresso degli Stati Uniti per sostenere la riforma del sistema sanitario nazionale. Il suo discorso è stato preceduto da una grande attesa, nella consapevolezza espressa da più parti che l'esito di questa sua battaglia potrebbe definire il senso generale e la portata stessa della sua presidenza. So tonight, I return to speak to all of you about an issue that is central, and that is the issue of healthcare. I am not the first president to take up this cause, but I am determined to be the last. Ore 20 della sera per la East Coast, il presidente degli Stati Uniti ha scelto dunque il prime time per rivolgersi al Congresso, al paese, per quella che appare la sua riforma più ambiziosa e difficile, il rinnovamento del settore della sanità. Partenza di grande impatto, l'avete sentito, molti presidenti degli Stati Uniti ci hanno provato, io voglio essere l'ultimo a farlo. Ancora buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca che riparte con la stagione di Radio 24. Noi torniamo a prenderci qualche minuto in più di quanto la settimana normalmente ci conceda per riflettere su una delle tante notizie che affollano il nostro panorama informativo. Questa sera con noi in collegamento dagli Stati Uniti Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Buonasera. Buonasera Gigi. Allora, l'attesa per le ore 20. Barack Obama, come dire, ha scelto il prime time, una scelta molto precisa. Ecco, nei giorni che hanno preceduto questo intervento c'era grande scetticismo. Prima di entrare nei dettagli vorrei chiederti se a tuo avviso in qualche modo Barack Obama ha vinto questa sfida. Ma dunque ha vinto la sfida del discorso, perché il discorso è stato molto efficace, è stato un discorso che in qualche modo ha chiarito la dinamica che la Casa Bianca vuole mettere in gioco sul piano politico, ed è stato un discorso sufficientemente lungo, ma non pesante, perché direi che abbiamo visto Obama nella sua forma migliore dal punto di vista della retorica, per spiegare meglio agli americani, certamente confusi, che cosa è in gioco, qual è la posta in gioco. Ti dirò un retroscena. Alla Casa Bianca si era molto parlato su come affrontare questo discorso del Presidente. Normalmente i discorsi alla Nazione avvengono dall'ufficio ovale, il Presidente in modo molto formale è seduto al suo tavolo di lavoro, c'è un collegamento diretto con tutte le reti televisive e il Presidente parla. In questo caso si è deciso di invece scegliere il discorso al Parlamento, primo per dare una maggiore solennità, per dare l'impressione di essere più direttamente coinvolti con le varie constituency e anche con l'opposizione, ma soprattutto perché il discorso doveva essere lungo. E quindi si è concluso che davanti a un pubblico live che interrompe, che applaude, dove c'è una dinamica che consente anche alle telecamere di muoversi per inquadrare persone e personaggi, era molto meglio, era molto più semplice fare questo discorso lungo, un discorso di quasi un'ora, appunto davanti al Congresso, che non sempre seduto al tavolo della Casa Bianca. Direi che la scelta strategica anche sul piano tecnico della comunicazione ha funzionato, perché si è respirata, quando abbiamo visto questo discorso, davvero l'aria delle grandi occasioni, dell'occasione storica, la grande solennità in cui l'America poi è bravissima, di guardarsi allo specchio, di parlare del proprio carattere, di parlare di questi valori straordinariamente elevati che poi segnano il destino della nazione. Insomma, Barack Obama è stato capace di colpire, di prendere il cuore, in qualche modo anche lo stomaco degli Stati Uniti in un tema molto molto delicato. E allora andiamo, cominciamo a sentire, a entrare nel dettaglio di questo progetto di legge da questo breve contributo. The plan I'm announcing tonight would meet three basic goals. It will provide more security and stability to those who have health insurance. It will provide insurance for those who don't. And it will slow the growth of healthcare costs for our families, our businesses, and our government. Più sicurezza per chi ce l'ha già, sicurezza per chi non ce l'ha e riduzione dei costi. Insomma, Mario, sembra un miracolo. Si affrontano in un colpo solo, quasi in un incipit, tutte le problematiche attuali legate alla sanità e non solo negli Stati Uniti, potrei dire. Sì, sì, sembra un miracolo. Obama poi ha spiegato anche un po' più nel dettaglio come e perché pensa di poter riuscire in questo triplice obiettivo. Vorrei fare una premessa. Secondo me, al di là della retorica, al di là della bravura di Obama nel pronunciare questo discorso, al di là dell'occasione storica, ecco, in realtà quello che è successo quella notte è che si è in qualche modo coagulato un nuovo patto. Voglio esagerare, quasi a dire che Obama possa in qualche modo aver fatto un patto col diavolo, e cioè con quelli che normalmente sono stati gli oppositori dei democratici, della Casa Bianca e di lui stesso, durante tutto questo periodo in cui si è cercato di costruire un progetto per fare la riforma sanitaria, e cioè le case farmaceutiche, i produttori di strumentazioni mediche e le compagnie assicurative. Questa lobby potentissima che controlla giri di affari per decine, centinaia di miliardi di dollari, era organizzata per non consentire a Barack Obama e ai democratici di andare avanti con questa riforma sanitaria. Allora, Mario, sentiamo un momento il Barack Obama sulle compagnie assicurative, allora, e poi continuiamo il ragionamento. What this plan will do is make the insurance you have work better for you. Under this plan, it will be against the law for insurance companies to deny you coverage because of a pre-existing condition. As soon as I sign this bill, it will be against the law for insurance companies to drop your coverage when you get sick or water it down when you need it the most. They will no longer be able to place some arbitrary cap on the amount of coverage you can receive in a given year or in a lifetime. Insomma, Barack Obama dice che questo piano farà funzionare meglio le assicurazioni, ma impedirà alle assicurazioni di scaricarvi sostanzialmente. Sembra quasi evocare quella serie di film americani che noi amiamo molto, in cui l'avvocato... Ha identificato, secondo me, il punto chiave di questo discorso, perché Obama, se sentiamo anche dal tono della voce, ha una retorica piuttosto aggressiva, quasi punitiva nei confronti delle compagnie di assicurazione. In realtà è lì che c'è il patto, e cioè le compagnie di assicurazione li faranno queste concessioni, stanno negoziando proprio in questi giorni per poter mettere a punto un disegno di legge che vada bene a tutti. Perché? Perché, e questo è il punto della stabilità, il primo punto, cioè oggi gli assicurati americani non sono sicuri al 100% di poter usare le loro polizze fino in fondo, perché spesso le compagnie di assicurazione dicono guarda, tu questo intervento noi non te lo paghiamo, perché devi fare la richiesta all'assicurazione per poter avere l'autorizzazione. Ed è spesso una decisione arbitraria, spesso queste compagnie di assicurazione, dopo che tu sei assicurato per 10 anni e improvvisamente hai un problema di diabete, dicono ma questo diabete tu ce l'avevi già da prima dei 10 anni, quindi non ti paghiamo. Ecco, spesso queste compagnie di assicurazione abusano del loro potere e quindi rendono la vita molto difficile agli assicurati, gli impediscono di avere le cure adeguate. Barack Obama ha citato 2 esempi, una donna che doveva curarsi per un cancro al seno e con delle scuse stupide la compagnia di assicurazione non gli ha dato l'ok, la poveretta poi è morta. E quindi ecco, questo tipo di azione va a colpire la direi sensibilità degli americani assicurati, degli americani che in teoria sono contro la riforma perché temono di essere poi diluiti in un contesto burocratico statale che gli impedirà di avere i servizi che vogliono. Questo Obama lo impedirà. Le compagnie di assicurazione, d'altra parte, gli andranno incontro perché? Perché allo stesso tempo Obama obbliga questi 40-47 milioni di americani che oggi non sono assicurati, nel momento in cui costoro avessero un livello di reddito sufficientemente elevato, e ci sono anche le cifre, il 200% del reddito minimo della soglia di povertà, a loro volta sono obbligati a sottoscrivere una polizza di assicurazione. E quindi cosa succede? Che improvvisamente per queste compagnie di assicurazione, che devono essere un po' più oneste, fra virgolette, nel rispettare i loro accordi e le loro polizze, si trovano 40 milioni potenziali, 38 milioni potenziali di nuovi clienti. Insomma, si apre un mercato, è quel mercato del Medicare, Medicaid, cioè gli anziani, i poveri, quelle persone che comunque, perché qui c'è anche un po' un cortocircuito a volte nei film, noi immaginiamo la classica scena di chi arriva all'emergenza americana e viene sbattuto fuori, in realtà non è così, la legge degli Stati Uniti impone l'intervento. Quello che può essere paradossale, e dimmi se sbaglio, è che poi ricevuta la fattura uno rischia di diventare insolvente, quindi, come dire, di non poter pagare la propria parcella e di non poter accendere un mutuo, per esempio. Esatto, se non è coperto dall'assicurazione. Se non è coperto. Dunque, prima di poter accedere all'aiuto dello Stato, che in questo momento esiste, diamo tre cifre che credo possano chiarire. Gli americani sono 300 milioni. Di questi, 180 milioni sono assicurati normalmente, hanno l'assicurazione col lavoro, e quindi non hanno alcun problema, quindi la maggioranza del paese. Ci sono poi altri 80 milioni circa, e facciamo di nuovo a spanne divisi 40 e 40, che sono coperti dall'assicurazione statale, e cioè i più poveri, quella classe di popolazione che non ha il reddito, un reddito sufficiente, e credo che il reddito minimo sia intorno ai 15-18 mila dollari all'anno, e gli anziani, cioè tutti coloro al di sopra dei 65 anni. Queste due classi di popolazione sono coperte rispettivamente dal Medicaid, quindi l'aiuto medico per i più poveri, e il Medicare, e dunque l'assistenza medica per i più anziani. E quindi 180 più 80, ecco che arriviamo già a 260 milioni di americani circa che hanno la copertura sanitaria. Gli altri che restano fuori sono questi 40 milioni che potrebbero averla, ma che per ragioni loro decidono di non averla, perché magari sono professionisti, magari sono dei lavoratori autonomi, non sono in un contesto lavorativo che fornisce la copertura assicurativa e quindi non vogliono spendere di tasca propria. Ecco, quello che Obama vuole cambiare è rendere invece obbligatoria la sottoscrizione di un'assicurazione per questi 40, sono 47 milioni tecnicamente parlando, però poi questo numero andrà diviso di nuovo fra coloro che sono delle classi più poveri, coloro che non possono permetterselo e coloro che invece possono permetterselo. Di certo all'orizzonte di Obama c'è dunque una situazione per cui ciascun americano, quasi un uomo un voto, una donna un voto, ci sia un uomo, una donna, una copertura sanitaria. Adesso ci fermiamo un momento, sentiamo insieme gli aggiornamenti per chi è in viaggio e poi torniamo in collegamento dagli Stati Uniti con Mario Platero che ci aiuta a capire, e questa prima parte è stata molto interessante perché avete sentito come da un lato Obama mandi un messaggio quasi minaccioso alle compagnie assicurative, un messaggio retorico anche se vogliamo populista in un certo senso, e nello stesso tempo gli abbia offerto un patto. 30 minuti in cronaca. Here are the details that every American needs to know about this plan. First, if you are among the hundreds of millions of Americans who already have health insurance through your job, or Medicare, or Medicaid, or the VA, nothing in this plan will require you or your employer to change the coverage of the doctor you have. Eccolo dunque, Obama che rassicura e si rivolge proprio a quei 180 milioni più 80 milioni di cui Mario Platero, che saluto ancora e ringrazio di essere con noi stasera, ci stava parlando. E, come dire, forse va approfondito questo elemento. Perché Obama si preoccupa di rassicurarlo? In fondo non ha nulla da perdere. Non ha nulla da perdere, però li deve rassicurare. Perché? Perché è partita una campagna straordinariamente aggressiva da parte di coloro che sono contrari ideologicamente a un allargamento del ruolo dello Stato. E allora forse dobbiamo fare un piccolo passo indietro, perché in realtà il progetto di Obama, e quello lo ha ribadito durante il discorso, seppure in termini minimi, era quello di creare una struttura sanitaria nazionale, la cosiddetta public option, che scendesse in campo in diretta concorrenza con le compagnie di assicurazione normale, con gli ospedali che sono in America in gran parte privati e così via, così via. Dunque un apparato federale che scendeva pesantemente in campo davvero a rivoluzionare il sistema, un po' come è in realtà il nostro sistema. Noi abbiamo un sistema sanitario nazionale che dipende direttamente dal Ministero, dal Governo e dunque dallo Stato. Poi ci sono le cliniche private, ci sono le assicurazioni private, ma la stragrande maggioranza è statale, gestita dallo Stato, con una burocrazia statale, con degli uffici statali e così via, così via. Ecco, Obama voleva cogliere l'occasione per cominciare a creare l'embrione di questa struttura statale. Naturalmente questo ha terrorizzato le compagnie private, perché si sono viste improvvisamente in concorrenza con lo Stato e, come sappiamo, Pantalone ha le tasche molto profonde, nonostante poi le promesse che i politici fanno tutto il tempo. E dunque la battaglia vera è partita su questa idea più aggressiva di Obama e dei democratici della sinistra, e dunque si è scatenata una retorica violentissima, al punto che lo slogan di maggior successo è stato quello delle cosiddette commissioni della morte. E queste forze di lobby, attraverso i loro mezzi mediatici, citavano episodi in Inghilterra, in Canada, in Europa, in cui pazienti, anziani o giovani, a un certo punto, per via della burocrazia che stabiliva che era inutile spendere dei soldi per un malato terminale, staccavano la spina. E dunque, citando esempi che non erano sempre calzanti e probabilmente dei casi estremi, hanno dato l'idea che Barack Obama volesse creare una burocrazia la quale aveva il potere di decidere sulle sorti del futuro sanitario o delle cure mediche degli individui. L'Obama quasi socialista, come viene evocato, come fosse un insulto e una minaccia a volte oltre Atlantico. Obama però in questo momento, un momento che al termine diciamo dell'estate l'ha visto un po' alle prese con i problemi di calo di popolarità, sembra anche attraverso questa bandiera, quello di questo progetto, avere lanciato un'offensiva. E anche all'interno di questo messaggio c'è un passaggio che vorrei condividere con te, perché parla di chi vuole uccidere questo piano e perché. Now this is the plan I'm proposing. It's a plan that incorporates ideas from many of the people in this room tonight, Democrats and Republicans. But know this, I will not waste time with those who have made the calculation that it's better politics to kill this plan than to improve it. Insomma, io non intendo perdere tempo con quelli che hanno fatto il calcolo che è meglio uccidere questo progetto politico piuttosto che migliorare, preceduto dal fatto che Obama si dice certo che alcune di queste idee siano condivise dal campo democratico e repubblicano. A chi si rivolge in particolare? Beh, si rivolge in questo caso all'opposizione politica, e cioè soprattutto ai repubblicani, ma devo dire anche in qualche modo a quei democratici che dalla parte conservatrice sono assolutamente determinati a non votare un piano che contenga questa famosa opzione pubblica e quindi l'istituzione di un embrione di un progetto sanitario nazionale, ma anche dei suoi compagni di partito, e cioè i compagni della sinistra che sono poi la leadership del Congresso, Nancy Pelosi alla Camera, Harry Reid al Senato, i quali a loro volta hanno detto che non voteranno mai per un piano senza la cosiddetta public option. Insomma, è troppo annacquato per loro, è troppo centrista? Sì, per loro diventerebbe una perduta, e soprattutto il mancato appuntamento ideologico a quello che poi è l'obiettivo, che in effetti è quello di creare un grosso apparato burocratico statale che poi tradizionalmente fa capo in genere più al Partito Democratico che al Partito Repubblicano, e dunque mobilitare una gran quantità di fondi che finiscono direttamente sotto il controllo dello Stato e non nelle mani dei privati. Quindi c'è anche un disegno politico dietro tutto questo, non è soltanto una questione umorale, ideologica, così un po' da paraocchi o così o niente, no, ci sono delle grosse partite in gioco. E molte ragioni, molti interessi. È chiaro che Obama sta richiamando schiacciando quello che forse è il suo tasto più forte, la presa sulla popolazione, insomma quello che ha creato questo formidabile movimento e questa sua clamorosa anche vittoria. Durante questo discorso c'è stato un momento anche particolare che riguarda proprio la figura e la protesta. Vorrei sentirlo, vorrei che lo sentissimo insieme. There are also those who claim that our reform efforts would ensure illegal immigrants. This too is false. The reforms The reforms I'm proposing would not apply to those who are here illegal. It's not true. Qui sembra di essere proprio in una sala di teatro shakespeariano. C'è il presidente degli Stati Uniti che dice, nello specifico, dice non è vero che destinerò dei fondi della sanità agli immigrati illegali, e c'è una voce che dice falso, stai mentendo, e poi sentite questo oh dal fondo. Ecco, in questo caso la voce era Joe Wilson, deputato repubblicano, che peraltro pare abbia raggiunto, come dire, una popolarità senza precedenti, ma che forse potrebbe anche costargli caro. Questo accade normalmente in questo tipo di dibattito o è veramente fuori dal normale ciò che è accaduto? No, è fuori dal normale. Vedi, noi dobbiamo capire che c'è un certo tipo di solennità, di educazione civica in queste occasioni così più formali negli Stati Uniti, che forse non ci appartiene. Noi siamo abituati ai politici che fanno le corna, che si picchiano, che si prendono a pugni, che si urlano, che interrompono le sedute. Ecco, qua invece il rapporto in una situazione di questo genere è molto più civile. Non era mai successo che ci fosse un'interruzione a scena aperta, e soprattutto un'interruzione con un insulto. Tant'è vero che Rahm Emanuel, il capo di gabinetto di Barack Obama, appena terminato il discorso, ha subito chiesto da chi è venuta questa accusa infamante, e poi ha detto non era mai successo che un presidente fosse trattato in questo modo. Poi Wilson si è scusato, come hai detto tu stesso. Poi nei giorni successivi qualcuno nel grande popolo di internet gli ha dato ragione, ha detto sei stato bravo, perché è vero, perché mentiva, bisognava dirlo. Però è stato un momento, direi così, interessante sul piano mediatico e sicuramente di connotazione shakespeariana, ma certamente infelice, perché ha stabilito un precedente in questa lotta verbale, in questa retorica direi persino eccessiva, perché Barack Obama è stato accusato dalla destra repubblicana di essere un nazista, è stato accusato di volere il sangue dei feti non nati, e qualcuno addirittura ha detto vorremmo vederlo morto. Insomma, cose che non erano mai successe prima. Queste avvenivano nei dibattiti dei radio talk show, dei dibattiti radiofonici, ma ecco, era successo nel corso dell'estate qualche cosa che Obama non immaginava sarebbe successo, e cioè, ed è questo secondo me il punto più importante attorno a questo discorso, e cioè per rendersi conto che in realtà, nonostante Barack Obama avesse vinto le elezioni, lui un uomo della sinistra, nonostante la base della sinistra avesse preso il controllo del Congresso, in realtà l'umore centrale del paese, l'umore generale del paese, restava ancorato più al centro barra centrodestra che non alla sinistra o al centro barra centrosinistra. Quindi Barack Obama si è accorto che aveva davanti a sé una reazione popolare molto forte. Le paure di quelli assicurati che venivano sollecitati da questi messaggi mediatici che parlavano di commissioni della morte, le compagnie di assicurazione, farmaceutiche, quelle che producono gli strumenti medici contro, e si è reso conto che rischiava di perdere davvero la partita. E dunque la sua svolta è stata quella di dire benissimo, dove troviamo il compromesso? Io rinuncio all'opzione pubblica, o comunque la riduco al minimo. Lui ha parlato del 5%, ma è chiaro che rinuncerà al 5% se si tratterà poi di approvare o non approvare la legge, quindi può rinunciare, di fatto ha detto che potrà rinunciare all'opzione pubblica, ha convinto i suoi compagni di partiti a seguirlo se quello sarà il caso, e quindi ha cercato di ricucire la coalizione interna, e ha eliminando quella minaccia di avere uno Stato americano che interveniva pesantemente nel ricchissimo settore sanitario, ha così tolto questa pregiudiziale, e quindi ha consentito alle compagnie di assicurazione e farmaceutiche che producono strumenti di riprendere il dialogo. Quindi è questo un po', secondo me, il compromesso che ha preso corpo, perché sul piano politico Barack Obama si è reso conto per tempo, secondo me, che rischiava di prendere una gravissima sconfitta politica, non soltanto di perdere il piano, ma chiaramente di perdere il voto, di arrivare in prospettiva alle elezioni dell'anno prossimo molto indebolito sia lui che il partito, con un paese convinto che da parte democratica ci fosse proprio quell'atteggiamento, fra virgolette, socialista di cui lo accusavano. Ecco, Obama ha voluto cancellare questa pregiudiziale, se riuscirà a far passare questo progetto di legge, come io penso che alla fine riuscirà, ne uscirà fuori comunque con una vittoria politica e quindi avrà riequilibrato i giochi politici sia del suo partito che della sua immagine presidenziale. Grazie a Mario Platero, siamo dunque alla conclusione, la sfida di Obama va avanti, naturalmente noi continueremo a raccontarla attraverso le pagine del Sole 24 Ore e di Radio 24, insomma siamo alla conclusione, mi resta solo da ringraziare Pietro Lacorte oggi in regia, di rimandarvi a radio24.it per sentire e risentire questa e le altre trasmissioni e di darvi appuntamento a sabato prossimo.